Letture di Radio 24. Il clamoroso successo ottenuto dai Misteri di Parigi di Eugène Sue, romanzo d'appendice ambientato tra i bassifondi della capitale francese, inaugura tutto un filone di narrativa e saggistica che sfrutta il morboso interesse del lettore per il proibito, per i delitti, per le miserie umane, per l'esposizione del dolore e delle passioni più forti. Le miserie dell'animo umano si spostano dai salotti alle periferie urbane e trovano spazio in una vasta produzione letteraria che trova anche una sponda nel nostro paese. Alcune di queste pagine vengono ora riproposte nel volume Il cuore oscuro dell'Ottocento, curato da Riccardo Reim e pubblicato dalla casa editrice Avagliano. In un brano firmato da Francesco Mastriani nel 1868 si parla dello strazio che prova chi vede i propri cari gettati come spazzatura nelle fosse comuni. La tumulazione dei poveri si fa nel nostro Camposanto Nuovo e per quelli che muoiono negli ospedali nel Camposanto Vecchio. Due grandi cortili, laterali allo spiazzato, compongono la terra serbata a diseredati della ultima croce. Ciascheduno di questi cortili contiene 88 fosse, di cui si apre una per ogni sera per la sepoltura dei poveri che muoiono nel corso della giornata. Ognuna di queste fosse, cinta di mura e coperta a volta, è di circa palmi 13 per 13 e alta 24. Una larga pietra copre l'apertura della fossa quando è già colma di cadaveri. Quelli tra i morti, la cui famiglia non può pagare una decina di lire per aversi un posticino provvisorio in qualche giardinetto, erano gittati pressoché ignudi l'uno sull'altro come balle di cotone. Due monaci francescani assistevano alla lacrimevole e nefasta cerimonia. L'un di loro aveva nelle mani la lista dei nomi dei pezzi che avevano da fare il salto, il moto di altalena che i becchini imprimevano al cadavere prima di balzarlo nella tetra conca, era l'ultimo moto di quelle membra che dovevano restare immobili nella giacitura, che a caso ritrovavano insino a tanto che disfatte dalla corruzione, non lasceranno ignude le ossa in quello strano bailamme. E il tonfo che accompagnava la caduta del cadavere nel fondo del fosso era l'ultima voce di dolore che mette la miseria pria di chiudersi per sempre alla ludibriosa luce del mondo. E quando il monaco aveva gridato nell'alto silenzio della città dei morti il nome rispettivo del pezzo, quando l'ultimo tonfo era risuonato cupo e profondo nei visceri della terra, quando la pesante pietra aveva chiuso per sempre il varco di quella fossa, la vita non finiva laggiù. Quei corpi avranno ciascuno un'altra famiglia, ciascuno i propri figliuoli, i vermi, da cui l'umana tirannide non potrà separarli. Nessuno acutissimo e scellerato strazio del cuore umano può paragonarsi a quello che proverebbe il cuore di un padre che fosse testimone di sì crudele spettacolo. Il tonfo terribile risuonerebbe nell'orecchio del padre per tutto il tempo della sua misera vita. E questo strazio provò il cuore di Tommaso, che assistette al capitombolo della figliolina. Il piccolo cadavere rimase alquanti minuti nella barella che il becchino aveva deposta sul terreno. La tumulazione degli altri cadaveri non era ancora finita. Profittando di quei pochi momenti che la concettina era rimasta nella barella, Tommaso, in ginocchia a poi il cataletto, aveva di peso sollevata nelle sue braccia la figliuola, come solea fare quando la piccina era viva, e stretto al petto quel corpicciolo di stucco, tutto ne andava carezzando il marmoreo viso e le aggiustava su per la fronte e dietro gli orecchi i capelli che già lunghetti eransi fatti e le copriva le spallucce con la pezzuola a puntino come solea fare quando la domenica ella andava a baciargli la mano per trarre alla messa e poscia, baciandola negli occhi e per le gote e su per le labbra, così dicevale sottovoce, quale per non farsi sentire dai becchini: «Gioia dell'anima mia, figlia mia benedetta, tu che solevi dormire abbracciata al mio collo ogni notte, ora ti gitteranno laggiù in quella brutta fossa, dove il tuo povero corpicino rimarrà schiacciato da questi luridi cadaveri che qui pure vengono gittati, e le tue braccia forse circonderanno il collo di un altro uomo, che non è il tuo babbo. Oh, se io potessi andar teco sepolto laggiù, e più la notte io non sentirò riscaldata la mia faccia dal tuo fiato odoroso, e la dimane, in sul destarmi, non udrò più la tua cara voce, e le mie labbra non toccheranno più quelle tue care labbrucce, per chi vivo ormai? Oh, ti hanno uccisa. Non è vero, angelo mio. La mia strega ti affunava al fusto del fico e ti lasciava colà morire di fame e di freddo. Ma io ti vendicherò, gioia mia. Sì, guarda, se io vivo è per te, è per vendicarti. Essi mi chiameranno l'idiota, e sia pure. Ma l'idiota ragiona. Tu sarai vendicata, figlia mia. Così parlò lo sventurato, E non si tosto proferite queste parole, due becchini se gli appressarono e gli chiesero del piccolo cadavere. Tommaso guardò come balordo quei due uomini e per un moto involontario restrinse al petto la morta figliuola. «Spicciati, compare», dissegli l'uno dei becchini. «Dacci quel pezzo». Tommaso mandò dal petto uno di quei gridi che produce il dilaceramento dell'anima. Indi ci ruppe a piangere come un fanciullo. Una copia sopragrande di lacrime gli copersero le lanute gote. Il monaco che assisteva alla funebre cerimonia, toccò a pietà di quel dolore, si avvicinò al dolente e sì gli disse: «Brav'uomo, è il superbo Iddio che da voi chiede questo gran sacrificio. La vostra paterna tenerezza vi ha mal consigliato nel venir qui per essere testimone del seppellimento della vostra angioletta. Pensate agli infiniti godimenti ond'è beata quest'anima santa nel paradiso. Le lacrime che ora versate sono da Dio raccolte e vi saranno contate a disconto delle vostre peccate. Fatevi animo. Date alla terra il fango che alla terra appartiene, siccome avete a Dio benedetta l'anima di Dio, e allontaniamoci da questo luogo di dolori». Il francescano tolse col bel garbo il piccolo cadavere dalle braccia di Tommaso, che non oppose più veruna resistenza. «Oh, padre, fate che io dia l'ultimo bacio sulla fronte della mia creatura». Il religioso vi consentì, e poscia consegnò ai becchini il corpicciuolo. «Per l'amore dei vostri nati», pregava con le mani giunte il misero genitore a due fossaioli, «non gittate col capo in giù, abbiate pietà di me, non fate che io senta quel brutto rumore che testè ha colpito i miei orecchi. È un'angioletta di Dio, sapete, non la maltrattate. Il Signore ve lo renda sulla salute dei vostri figliuoli. Se poteste mandarla giù ad agio, non le fate male, povera bimba mia». I due fossaiuoli, poco o nulla badando alle parole di quello infelice, presero l'un pel capo e l'altro per i piedi il corpicciuolo e il monaco si era allontanato. Il cuore del buon religioso non resse al doloroso spettacolo. Tommaso volse il tergo e si coprì il volto con ambo le mani. Poco stante, un cupo e sordo tonfo si udì. Pietoso il vento affogò il lugubre suono agli orecchi di quel misero padre. Avete ascoltato la lettura del brano di Francesco Mastriani, Il seppellimento dei poveri, tratto dal libro Il cuore oscuro dell'Ottocento, a cura di Riccardo Raim. Avagliano Editore, 376 pagine, 16 euro. Il passato è una terra straniera. Fanno le cose in modo diverso laggiù. Così inizia Messaggero d'amore, romanzo pubblicato nel 1953 da Leslie P. Hartley. Il libro, dal quale nel 1970 Joseph Losey aveva tratto un film premiato con la Palma d'Oro al Festival di Cannes, viene ora riproposto in una nuova traduzione italiana, in occasione dei 40 anni dalla scomparsa dello scrittore inglese. A pronunciare la frase è Leo, il protagonista del romanzo, un uomo di 60 anni che, mentre cerca di ricostruire i vari tasselli che compongono il suo passato, si imbatte in un diario che lo aiuta a colmare un vuoto nella sua memoria. Quando mi sono imbattuto nel diario, giaceva sul fondo di una scatola di cartone, rossa e piuttosto ammaccata, in cui da ragazzo tenevo i miei colletti di Eton. Qualcuno, forse mia madre, l'aveva riempita di tesori che risalivano a quel tempo. C'erano due scheletri di ricci di mare, due calamite arrugginite, una grande e una piccola, che avevano perso il loro magnetismo, negativi arrotolati a una bobina, mozziconi di ceralacca, un piccolo lucchetto a combinazione con tre involti di lettere, un pezzo di saia pregiata e uno o due oggetti indefinibili che non avrei nemmeno saputo dire a cosa fossero appartenuti. Non volevo toccarlo, forse perché pensavo che sfidasse la mia memoria. Ero fiero della mia memoria e non sopportavo che qualcosa la incalzasse. Per questo stavo seduto a fissare il diario come se fosse lo spazio vuoto di un cruciverba. Avrei dovuto trovarmi in un'altra stanza, illuminata dall'arcobaleno, a guardare non il passato, ma il futuro, e non avrei dovuto essere solo. Questo dissi a me stesso, e con un atto di volontà, non di desiderio, come la maggior parte dei miei atti, presi il diario dalla scatola e lo aprii. Diceva «Diario per l'anno 1900», in una scrittura chiara, diversa da quella di oggi. L'anno 1900 aveva un'attrattiva quasi mistica per me. Non vedevo l'ora che arrivasse. 900. 900. Salmodiavo rapito tra me e me, e mentre il vecchio secolo si avviava alla conclusione, cominciavo a domandarmi se fossi vissuto per vedere il successivo. Ne avevo motivo. Ero stato malato e avevo una certa familiarità con l'idea della morte, ma più grande ancora era la paura di perdere qualcosa di infinitamente prezioso, l'alba dell'età dell'oro. perché pensavo che questo sarebbe stato il nuovo secolo, la realizzazione, da parte del mondo intero, delle speranze che nutrivo per me stesso. Il diario era un regalo di Natale da parte di mia madre. Le avevo confidato alcune, anche se certamente non tutte, delle mie aspirazioni per il futuro. E voleva che il loro accadere fosse degnamente ricordato. Volevo essere degno del diario, del suo cuoio rosso, dei suoi bordi d'oro, della sua generale sontuosità. E sentivo che quello che scrivevo doveva esserne all'altezza. Sentivo di dover annotare qualcosa di degno, di dover raggiungere risultati letterari di alto livello. Le mie idee su cosa fosse degno di essere annotato erano già piuttosto esigenti e mi sembrava che la vita scolastica non fornisse avvenimenti adatti a uno scenario magnifico come il mio diario o come l'anno 1900. Cosa avevo scritto? Ricordavo abbastanza bene la catastrofe, ma non le tappe che avevano portato a essa. Voltavo le pagine. Le annotazioni erano poche. Il mio atteggiamento verso il diario era duplice e contraddittorio. Ne ero estremamente orgoglioso e volevo che tutti lo vedessero e leggessero quello che avevo scritto. E allo stesso tempo tendevo alla segretezza e non volevo che nessuno lo vedesse. Passavo ore a valutare i pro e i contro delle alternative. Pensavo all'accoglienza festante che avrebbe incontrato il diario mentre passava di mano in mano, tra l'ammirazione generale. Pensavo all'accrescimento del mio prestigio e pensavo che avrei dovuto approfittare, discretamente ma con efficacia, delle possibilità di vantarmi di esso. Dall'altro lato c'era il piacere intimo di rimuginare sul diario in segreto, come un uccello seduto sulle mie uova, covando, creando, perdendomi in reverizzo di acali, riflettendo sul glorioso destino del XX secolo, intossicato dalle mie quasi sensuali premonizioni di ciò che stava per accadermi. Queste gioie erano legate alla segretezza. Sarebbero svanite se le avessi rivelate o avessi tradito la loro fonte. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Leslie P. Hartley, Messaggero d'amore, Nutrimenti Editore, 368 pagine, 19,50 euro.